In questo immenso creato tutto è relazione. La creazione è in relazione con se stessa. Le tante leggi, conosciute e sconosciute, che regolano l'equilibrio di tutto ciò che vediamo, sono in collegamento tra di loro. Basti pensare alla pioggia che cade nel momento opportuno e al posto opportuno. Ovviamente, quando l'uomo non altera gli equilibri creazionali, anche gli animali sono in relazione tra di loro. Basti pensare ai milioni di esseri viventi che sono nel mare. Nonostante vi siano prede e predatori, la loro convivenza è una relazione perfetta. Se così non fosse, dopo milioni di anni, sparirebbe qualche razza. Fra tutte queste, la relazione più profonda è certamente quella umana. Perché, oltre l'aspetto materiale dell'anima, che è lo stesso di quello degli animali, gli esseri umani hanno un rapporto spirituale. Le relazioni esistenti fra il creato, gli animali e gli esseri umani dimostrano che il creatore aveva un principio, il medesimo principio che è insito nel Dio Trino dei cristiani. In effetti, nella divinità dei cristiani vi sono tre persone che hanno una relazione fra loro concretamente specifica, così che uno è il Padre, uno è il Figlio e l'altra è la persona dello Spirito Santo. Perciò è normale che tra le persone vi siano delle relazioni quali l'amicizia, quelle familiari, come la relazione paterna, materna, filiale. Tutte queste relazioni possono esistere ad una sola condizione: che vi sia l'amore. Senza l'amore non può sussistere nulla, come senza il calore non vi è e non si sviluppa la vita. Così, senza l'amore nulla potrebbe esistere, neppure Dio, perché egli è amore. Così, troviamo che anche nel cuore dell'essere umano più spietato abita una parte d'amore. Amore espresso, se non altro, verso se stesso, quando egli si prende cura della sua persona. Amare, quindi, non è solo una bella e buona relazione, ma è soprattutto vita, armonia, gioia, benessere. Amare è vita. Amare è vivere. Amare è raggiungere lo scopo per cui siamo stati fatti. Amare è realizzare se stessi. Non si può vivere senza amare, come non si può sussistere senza respirare. Perciò, amare, anche se imperfettamente, è l'atteggiamento normale di un essere come l'uomo, che è creato ad immagine di Dio. Nonostante l'atto di amare sia la relazione più importante e indispensabile, vi è un'altra relazione, che fa sempre parte dell'amore e lo completa. È amarsi, cioè la relazione di amore reciproco tra persone. È l'amore corrisposto. Amare una o più persone è un tipo di relazione, ma amarsi reciprocamente è la relazione delle relazioni. Amare significa produrre del benessere al prossimo. Significa interessarsi concretamente di lui perché sia felice. Amare significa desiderare la felicità e il benessere del prossimo più della propria felicità e di tutto ciò che ci può essere di positivo nella vita. Amare il prossimo significa dimenticare se stessi fino a donare la propria vita per lui, al pari del modo in cui Dio ha amato la sua creatura. Troviamo la descrizione dell'amore di Dio in questa bellissima testimonianza dell'Apostolo Giovanni. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. 1 Giovanni 4, 9-10. L'amore di Dio è stato manifestato nella sua decisione di amarci, e questo amore lo ha dimostrato nel dare suo Figlio a morire al posto della sua creatura perduta, perché avesse la vita eterna. Questo è amore. Questo è l'amore. Ma questo amore è un amore a senso unico. Questo amore dona, senza aspettarsi di ricevere. Questo amore offre comunque, anche se sa che non è corrisposto. Del resto, questa è la componente del vero amore. Nel momento in cui si ama e si attende di essere amati, non è più il vero amore. L'amore, per sua natura, non fa calcoli. L'amore getta i suoi doni come si getta una monetina nel pozzo dei desideri, o in un pozzo senza fondo. L'amore dona con lo scopo di donare, non donando al fine o nella speranza di ricevere. L'amore dona perché non può fare altrimenti. Come il sole splende, perché è nella sua natura fare luce. Questo tipo di amore è quello che scorre maggiormente tra la razza umana. Lo vediamo nell'emblema della madre con il figlio. Lo constatiamo tra i filantropi, anche se ovviamente accompagnato da una certa dose di egoismo. L'uomo non può amare senza amare se stesso. Nonostante tutto, però, perché la società possa andare avanti e sussistere, deve ad ogni istante fare leva sull'amore a senso unico. Senza questo obiettivo, nessuno compirebbe più un'azione buona. Eppure, benché vi sia tra gli uomini la ricchezza di questo amore, che è praticato anche senza la speranza di essere riconosciuto, è auspicabile che ogni essere umano realizzi anche l'esperienza di un amore corrisposto, l'amore che potremmo definire amore boomerang, perché la ricchezza che scaturisce da una relazione di questo tipo non è paragonabile a nessun'altra cosa e a nessun'altra relazione. Amarsi reciprocamente è gustare e realizzare uno scambio d'amore l'uno verso l'altro. È amore recepito, compreso e contraccambiato. Se amare è donare, amarsi tra persone è ricevere anche l'amore dato. È per questo che l'amore ricambiato è gustare l'amore due volte. Si gusta l'amore nel dare. Altrettanto lo si gusta nell'essere contraccambiati. Ricevere l'amore che l'altro ci offre è dare al rapporto d'amore la giusta completezza, perché la relazione esistente nell'amarsi, cioè nell'aprire il cuore all'amore offertoci, è simile a quella presente nel Dio Trino. Il Padre, il Figlio e la persona dello Spirito Santo non solo amano, ma ricevono l'amore che si offrono reciprocamente. L'amore tra le tre persone divine è dato, corrisposto e ricevuto. È come il campo magnetico tra tre palline di ferro che formano un triangolo. Il campo magnetico va e viene, diversamente non esiste campo magnetico. Amarsi reciprocamente non significa solo amare, ma anche riconoscere di essere amati. E perciò, per la stessa natura dell'amore, si ricambia con l'amore. Proprio perché l'amore, quando dona, non può fare a meno di ricambiare con l'amore. Chi pensa di amare e non ricambia allo stesso modo, anche se crede di amare, di fatto non lo fa. Quando Gesù disse, se la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Matteo 6,23 metteva in guardia ognuno di noi dall'autoinganno. Se ci inganniamo in cose di poco valore il danno è relativo, ma se ci inganniamo in ciò che è più importante e indispensabile come l'amore, il danno è inevitabilmente fatale. L'amore reciproco è la garanzia che il nostro amore è vero amore e non solo un melenso sentimento. Amare e ricevere l'amore di chi ci ama è più che amare, perché oltre ad avere un amore a senso unico facendo il bene, accogliendo l'amore che ci viene offerto, si compie un atto che completa l'amore stesso, portandolo al suo apice. Amare è donare, quindi, ma lo è altrettanto accettare. È l'egoismo che impedisce la relazione di un amore fatto di scambio reciproco. E per questo si può vivere la propria esistenza amando il prossimo a senso unico per egoismo. Ricevere non è solo un atto di amore, ma fa parte dell'amore stesso. Nelle relazioni trinitarie il padre ama il figlio, ma il padre riceve anche l'amore del figlio. Amare è come avere una mezza mela, l'amore ricambiato è avere una mela intera. Amare è l'esperienza nella sua incompletezza, l'amore è reciproco e realizzare l'amore al completo. La differenza tra amare e amarsi scambievolmente è la stessa che passa tra il monologo e il colloquio. È vero che io posso comunicare, ma è altra cosa poter colloquiare. La felicità di esprimere il mio amore nel parlare con un neonato non è la stessa di un colloquio con una persona. Amare è felicità, amarsi in due è doppia felicità. Poiché quando si parla di amore, pensiamo inevitabilmente alla relazione più intima, al matrimonio. Consideriamo l'amarsi reciprocamente e l'amore in questa istituzione divina. La maggioranza si sposa per un istinto naturale, per un bisogno fisico e psicologico. Questo spiega perché per molti il matrimonio è più una usanza che il desiderio di una convivenza. Altri sposandosi hanno il desiderio di amare la persona scelta e lo fanno con tutte le loro forze. Amano il loro partner a senso unico. Si interessano vivamente e sinceramente dei suoi bisogni, ma non si inoltrano in una relazione di amore scambievole, un amore che dona ma che è anche pronto a ricevere. L'amore di certi coniugi è simile a quello del ricco che dona al miserabile, fa del bene perché l'altro ne ha bisogno, ma lui non è bisognoso. Oppure è anche simile all'amore di una madre che porta in seno una creatura. Ci è la soddisfazione di dare perché non si è costretti a ricevere. Questi coniugi amano ma non hanno il coraggio di avventurarsi in un amore ricambiato perché costa un prezzo di tempo e di coraggio di vedere le proprie ombre. Essi temono di doversi impegnare ricevendo il bene del coniuge. Ricevere è impegno, dipendenza in un certo senso. Quando fai l'elemosina puoi non avere altra relazione con chi ha bisogno che tendergli una mano pietosa. Altra cosa è ammettere il tuo bisogno del bene dell'altro e tendere la tua mano e essere grato. Amarsi scambievolmente, accogliendo il bene dell'altro, è la relazione più perfetta, ma è altresì la relazione che richiede di più. È per questo che sono pochi gli sposi che non solo hanno imparato a dare senza pretendere o sperare, ma che sanno anche prendere con gioia e gratitudine. Amarsi tra coniugi significa sì, donarsi a senso unico, ma ricevere pure il dono d'amore dell'amato, perché l'amore dell'amante gioisce della gioia dell'amato. Anche se ad alcuni sembra strano, all'interno di un matrimonio una relazione d'amore, o meglio, un amore con una relazione non può esistere se prima non si è instaurato l'amore ricambiato con Dio. L'apostolo Giovanni, il quale aveva posto fede in Cristo, disse: «Noi amiamo, perché Egli ci ha amati per primo», 1 Giovanni 4,19. Nell'uomo non esiste la capacità di amare, ma quando si rende conto di essere stato amato, allora per riconoscenza e riflesso, ama, e così la creatura e Dio possono amarsi, cioè instaurare un rapporto di amore a doppio senso. Ecco perché amarsi l'un l'altro significa rispondere all'amore ricevuto. Ecco perché l'amore corrisposto è la relazione più perfetta. Una coppia che si ama, cioè si fa del bene ma non ha bisogno di accettare il bene dell'altro, ha fallito lo scopo per il quale è stato istituito il matrimonio. Una relazione fraterna o sociale dove si ama ma non si è imparato a ricevere il bene altrui anche se è già un grande dono, consiste in un amore che nasconde una certa dose di orgoglio e di autosufficienza. Uno dei più grandi obiettivi della vita è certamente quello di amare Dio e il prossimo come noi stessi, ma amarsi con Dio e il prossimo, cioè avere ricezione scambievole. Nell'amore rimane l'esperienza che legittima la liceità del vero amore. Amare è possedere un tesoro nascosto. Amarsi reciprocamente e mettere in evidenza questo tesoro, e così coloro che lo ricevano possono aggiungere altri beni preziosi. Amarsi reciprocamente è una relazione sempre più ricca ed infinita. L'amore reciproco è dunque qualcosa di più che amare. Se amare è gioia, l'amore ricambiato è infinita gioia. Aprile 2005. Ellero.